E quale il mandrian che fori alberga lungo il peculio suo queto per notta, guardando perché fiera non lo sperga, tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Poco parer potea lì del di fori, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere più chiare e maggiori. Sì ruminando e sì mirando in quelle mi prese il sonno che sovente, anzi che il fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo che dell'Oriente prima raggiò nel monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane e bella, in sogno mi parea donna vedere andar per una landa cogliendo fiori, e cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda, chi mi son lia, e vo movendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'addorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto giorno. Ella è di suoi begli occhi veder vaga, com'io dell'addornarmi con le mani. Lei lo vedere e me lovrare appaga. E già per gli splendori antelucani che tanto a pellegrin surgon più grati, quanto tornando albergan me lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami, veggendo i gran maestri già levati. Quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste iguali. Tanto voler sopra voler mi venne dell'esser su, ch'ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fu poi in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal fuoco e l'eterno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte. Lo tuo piacere omai prendi per duce. Fuor sé dell'erte vie, fuor sé dell'arte. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi le erbette, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce. Mentre che vegna lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettarmi udir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio e fallo fora non fare a suo senno. Perch'io te sovra te corono e mitrio. Fine del 27° canto del Purgatorio. Più non si va.